24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le divergenze, poi smentite tra Francia e Germania su un piano europeo di ricapitalizzazione delle banche. A mercati europei chiusi è giunta la notizia dell'ennesimo downgrade dell'Italia, questa volta è toccato all'agenzia di rating Fitch, che ha declassato anche la Spagna. Domenica la Polonia va al voto per delle cruciali elezioni legislative, mentre l'Europa bacchetta l'Italia sulle emissioni di gas serra. Per chiudere parleremo di cinema con un festival tutto dedicato alle pellicole del vecchio continente. Questi dunque gli argomenti nel sommario, ma per cominciare la notizia che ha scosso i mercati venerdì sera. Nuovo duro colpo di immagine per l'Italia, Fitch ha declassato il bel paese portando il rating dalla doppia A- ad A+, con outlook negativo. L'agenzia motiva la decisione con la situazione di vulnerabilità del paese a fronte della crisi dell'Eurozona. Fitch ha tagliato il rating di lungo termine anche della Spagna, portandolo da doppia A+ a doppia A-, l'outlook è negativo. Il Portogallo rimane infine a rischio di un taglio del rating a junk, cioè spazzatura, sempre secondo Fitch. Non c'è alcuna divergenza tra Francia e Germania su un eventuale piano europeo di misure coordinate di ricapitalizzazione delle banche. Lo ha affermato il Ministero delle Finanze francese, ribadendo di essere a favore di un coordinamento comunitario su questo fronte e riconoscendo che le banche europee, incluse quelle francesi, avranno bisogno di altri capitali, se non altro per allinearsi ai nuovi criteri prudenziali internazionali. In precedenza, un portavoce della cancelliera Angela Merkel aveva ribadito che, in prima battuta, questi rafforzamenti patrimoniali andranno effettuati tra gli azionisti delle banche o con i sistemi di sostegno pubblici nazionali e che solo nell'impossibilità di attingere a questi due canali si potrà ipotizzare l'utilizzo del Fondo Europeo Anticrisi, lo European Financial Stability Facility. Invece la Francia vorrebbe da subito fare ricorso alla cassa comune dello IFSF. La cancelliera tedesca Angela Merkel trova interessante l'idea di un commissario europeo per l'euro. La Merkel ha commentato così una proposta avanzata venerdì a Berlino dal premier olandese Mark Rutte. La Grecia non sarà un tema di discussione al prossimo summit europeo del 17 e 18 ottobre, mentre lo sarà la ricapitalizzazione delle banche, ha aggiunto la Merkel. La Commissione dovrebbe presentare nei prossimi giorni le sue proposte in materia di ricapitalizzazione degli istituti di credito. Adottare al più presto misure per il rilancio della crescita a livello nazionale ed europeo, anche intensificando le pressioni sui singoli paesi per evitare di perdere, a causa di un'Europa a due velocità, i benefici del mercato unico. Questo l'appello lanciato dai premier di Olanda, Svezia e Finlandia in una lettera congiunta inviata ai vertici europei in vista del summit di Bruxelles della prossima settimana. E la Commissione non è preoccupata per il ritardo del piano italiano di crescita, rinviato di una settimana, ma chiede a Roma che le misure necessarie per ripristinare la fiducia dei mercati siano prese al più presto. Giovedì era stato annunciato dalla maggioranza di centrodestra in rinvio di una settimana al 20 ottobre dell'arrivo in Consiglio dei Ministri del pacchetto. E ora siamo alle borse, che chiudono in rialzo la terza seduta consecutiva grazie ai dati positivi dell'occupazione americana, risultati migliori delle attese. Milano ha archiviato la seduta in segno positivo col FTSE MIB in rialzo dell'1,29%. Bene le banche, sentiamo. Le borse europee hanno chiuso in rialzo la terza seduta consecutiva grazie ai dati positivi sull'occupazione americana, risultati migliori delle attese. Milano, con il FTSE MIB in rialzo dell'1,29%, ha archiviato la settimana borsistica con incremento complessivo del 4,7%, nonostante i cali registrati lunedì e martedì. Piazza Affari è stata trainata dal buon andamento delle banche, con BPM che ha guadagnato il 4,3%, ancora al centro delle speculazioni in vista del rinnovo dei vertici il prossimo 22 ottobre e della partenza a fine mese dell'aumento di capitale da 800 milioni. Bene anche Unicredit più 2,4% e Intesa San Paolo più 3,2%. Per contro hanno chiuso in controtendenza Fonsai e Tenaris. La prima ha perso il 4,2% all'indomani dell'allarme utili sui conti 2011. La società ha infatti annunciato che è ragionevole prevedere il mancato raggiungimento del risultato netto di gruppo previsto nel budget di quest'anno. Tenaris, meno 3,4%, è stata invece colpita dai realizzi dopo un guadagno del 15,6% in due sedute, penalizzata in particolare dal taglio degli obiettivi per il secondo semestre da parte della concorrente francese Vallourec. Livia Zancanerdo, Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Polonia domenica al voto, a rischio la maggioranza del governo Tusk. Nell'ultimo sondaggio prima delle elezioni politiche polacche del 9 ottobre, alla coalizione di governo guidata da Donald Tusk mancano 2 seggi per riconquistare la maggioranza del Parlamento. In base alle stime, la coalizione fra il partito centrista ed europeista di Tusk e il partito degli agricoltori avrebbero in tutto 229 seggi sui 460 della Dieta e il Parlamento polacco. I conservatori nazionalisti ed euroscettici del Partito per la Legge e la Giustizia di Jaroslaw Kaczynski, gemello del presidente Lech, morto lo scorso anno nell'incidente aereo, otterrebbero 149 seggi, nonostante la grande rimonta delle ultime settimane. Donald Tusk, 54 anni, potrebbe perciò riuscire nell'impresa fallita dai suoi predecessori e restare in carica per 2 mandati, una ricompensa per l'uomo che nel 2009 è riuscito a far sì che la Polonia fosse l'unico paese dell'Unione Europea a non finire in recessione, ma la coalizione con il Partito degli Agricoltori potrebbe non bastare più. Il terzo partner potrebbe essere rappresentato dai post-comunisti dell'Alleanza della Sinistra Democratica, che però si opporrebbero ai prossimi inevitabili tagli della spesa pubblica. Il prossimo governo dovrà infatti intervenire per riportare il deficit pubblico sotto il 3% del PIL, dal recente massimo del 10%. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Europa bacchetta l'Italia sulle emissioni di gas serra, siete indietro sugli obiettivi del protocollo di Kyoto. Il servizio. Il cattivo tempo di un singolo in una staffetta mette a rischio le chance di vittoria di tutta la squadra. Questo in pratica è il monito lanciato dall'Europa con i risultati dell'ultimo rapporto sulle emissioni di gas serra. Il quadro tracciato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente è nel complesso positivo. Nonostante nel 2010 le emissioni siano tornate a crescere dopo la frenata per la recessione, l'Unione è comunque al 15,5% di riduzione rispetto al 1990, benchmark scelto dalle Nazioni Unite. Con una proiezione per il 2020 che arriva al 19%, un solo punto sotto l'obiettivo del 20%. Traguardo vicino quindi, ma che qualcuno potrebbe mettere in pericolo. I risultati in vista degli obiettivi per il 2012 del protocollo di Kyoto permettono infatti all'Europa, che ha già raggiunto ampiamente il suo target, di tirare le orecchie all'Italia che, a fronte di una riduzione auspicata del 6,5%, attualmente è solo al 4,8%. Non sufficiente secondo Jacqueline McGlade, direttrice dell'agenzia. L'Italia sembra raccogliere la sfida. Proprio ieri il ministro per l'ambiente Prestigiacomo ha incontrato il commissario europeo Hedegaard. Sia un secondo protocollo di Kyoto, ha detto, ma nel 2017 e con l'impegno anche delle altre economie. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poco più di 2 europei su 3 considerano il cambiamento climatico un problema molto grave. Per quasi l'80%, l'adozione di misure per combatterlo può dare impulso all'economia e all'occupazione, a rivelarlo un'indagine Eurobarometro. Ritrovato il relitto del transatlantico inglese Transilvania al largo dell'isola di Bergeggi in Liguria. L'imbarcazione era stata fondata nel 1917 durante la Prima Guerra Mondiale da un sottomarino tedesco e in questi 94 anni sulla sua chiglia si è sviluppata una rarissima tipologia di corallo. Era la mattina del 4 maggio 1917 quando il sottomarino tedesco del tenente di vascello Otto Schulz lanciava 2 siluri contro il transatlantico inglese Transilvania, utilizzato dalla marina britannica per inviare truppe ad Alessandria d'Egitto durante le operazioni della Prima Guerra Mondiale. A bordo c'erano 3.000 soldati e i morti furono più di 400. Oggi il servizio subacquei dei carabinieri di Genova ha individuato il relitto ed è riuscito a riprendere delle immagini dell'imbarcazione spezzata in 2 tronconi, che giace ad una profondità di 630 metri, operazione consentita dall'impiego di un robot da profondità. Muovendo il macchinario intorno alla base della chiglia del Transilvania, i militari hanno scoperto una formazione di madrepora oculata, una specie rarissima di corallo bianco che cresce solo a grande profondità. Scoperta, sottolinea il comandante dei sommozzatori Francesco Schilardi, che adesso permetterà ai biologi di studiare i tempi di formazione di questa specie, avendo nel maggio del 1917 un riferimento temporale sicuro. Francesco Maesano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura parliamo di cinema. La 28ª edizione di Viareggio Europa Cinema ospita fino a domenica 16 ottobre anteprime nazionali, eventi speciali, seminari, incontri con autori e omaggi ai grandi protagonisti della storia del cinema italiano ed europeo. Sentiamo il direttore artistico Piermarco De Santi al microfono di Paolo Panceri. Da noi il cinema europeo viene conosciuto se un film europeo vince a Venezia piuttosto che a Cannes, piuttosto che a Festival di Roma. Invece la cinematografia europea è una cinematografia molto prolifica. Ci sono arrivati 112 film provenienti da tutti i paesi europei e anche dell'area europea, geografica europea, e ne abbiamo selezionati 12. Il criterio è naturalmente di qualità, che viene deciso prioritariamente dalle istituzioni europee, cioè loro ci mandano quelli che ritengono siano le loro opere migliori dell'anno, cosa che non viene fatta per esempio mai dall'Italia, e quindi fanno loro una preselezione, cioè la Hungarian Film piuttosto che la Svensk Film Institute piuttosto che la Dansk Film, io sto parlando dei rapporti con le istituzioni nazionali, sono loro che dicono: guardate, secondo noi questi sono i film, diciamo, migliori. Ovviamente noi dobbiamo poi scremare, eliminare tutto ciò che riguarda il film di genere. Era questa l'ultima notizia, è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.